Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il programma prevede la sveglia alle 2 di notte per essere nel piazzale delle piste da sci alle 4 del mattino e iniziare la camminata. Io mi preparo meticolosamente con riserve di cioccolata e caramelle di zucchero, oltre ai viveri e alle borracce che si usano nelle gite di montagna. Mi sento pronto, alla faccia dei grandi, che non volevano che andassi con loro. Mi chiamo Emanuele Dutto, da Boves, 33 anni, sposato con Mary, papà di una bimba di 2 anni e di un maschietto di 2 mesi. Caro Matteo, da bambino e da ragazzo non c'era nulla di più lontano dai miei ideali e dalle mie aspettative della vita di mio padre. Lui militare, io civile. Lui pilota, io ingegnere. Lui combattente, io pacifista. Sempre in perenne contrasto, in lotta, lui per affermare i suoi principi e io per fuggirne. Era il 1983, io avevo appena preso la maturità. Ricordo le sue pressioni per farmi capire quanto fosse fondamentale prendere il massimo dei voti, 60-60esimi. In quel modo avrei avuto la possibilità di accedere alle prove di selezione per l'Accademia Aeronautica, che lui aveva deciso già da tempo doveva essere il mio logico e ovvio percorso di studi. Io l'avevo accontentato, ma una volta preso i 60, non so da dove tirai fuori il coraggio per dirgli: «Mi spiace papà, io non farò come te, lasciami seguire quello che mi piace fare». Lui accusò il colpo, ma dopo un lungo silenzio quel no segnò anche la fine delle ostilità. Io saltai in sella alla moto e diedi l'addio per sempre alla vita militare. Lui non fece più alcuna pressione e io proseguì a fare di testa mia. Tanto tempo all'estero e poi rientro in carreggiata, la laurea, la specializzazione, il dottorato, la professione e infine pure l'espatrio. 15 anni di vita senza avere mai avuto nulla a che fare con i luoghi, le scelte, i motivi che avevano ispirato la sua di vita, passata in mezzo agli aeroplani. Una vita diversa da quella che lui avrebbe immaginato per me. Ecco, ora, a 12 anni dalla sua scomparsa, mi ritrovo a scrivere di lui, qui, allacciato al sedile che è diventato il mio posto di lavoro, a 10.000 metri di quota. E sai una cosa? Io sono felice. 349-238-6666. Non avevo immaginato, pensando alla puntata di oggi e pensando anche al racconto che ci ha mandato Emanuele, che tra poco vi racconterò, che riguarda un percorso montano, una passeggiata in montagna che lui, il papà e lo zio hanno fatto per ripercorrere la stessa strada che fece il nonno molti anni prima. Non avevo immaginato che potessero arrivare delle mail come questa di Manuel, che parla del padre, ma ce ne sono arrivate diverse, anche un altro. Di dove Diego, sempre che parlano del padre e di come alla fine, per quanto si prendano strade diverse, in qualche modo poi le strade si uniscono, o forse semplicemente ci si accorge di essere più simili ai propri padri di quanto non si pensi. 349-238-6666, come mi ha scritto anche Rebecca, ad esempio: stesso lavoro, stesso numero di esami mancanti alla laurea, stesso sorriso e probabilmente stessi difetti di mio padre. Quelle che mi stupiscono non sono le strade che consapevolmente scelgo di ripercorrere, ma quelle che credo di inventare, quelle che imbocco da sola e che scopro invece già percorse da lui anni prima. 349-238-6666, oppure c'è la mail che è voisietequi@radio24.it. Oggi nella formazione, direi per l'ultima volta temo, in questa formazione particolare, con Franco Piantanida dall'altra parte del vetro al posto di Viola Bottoni, Paolino Corleoni sempre qui, e invece Tiziano Bonini dall'altra parte dell'oceano, mi verrebbe da dire, no, dell'oceano, ma insomma di là dal confine. Ma tornano tutti lunedì. Stefano D'Andrea tornerà presto anche lui con noi. Ci sono delle storie che continuano ad arrivare. Voi siete qui, @radio24.it, e con calma, come vi rispondiamo, le leggiamo tutte, le prendiamo in esame, se c'è da sistemare le sistemiamo e poi le trasmettiamo e le mandiamo in onda e le raccontiamo. Sempre a patto che ci sia quel piccolo accorgimento, e cioè che non siano lunghe 20 pagine, che non raccontino biografie complete, ma che siano semplicemente un piccolo episodio della vostra vita, una cosa che racconti in maniera particolare qualche cosa di voi, esattamente come è successo a Emanuele, che ha scelto di raccontare una passeggiata lungo non 4 valli, ma alla fine lungo 5 valli. Qualche tempo fa mio padre e lo zio Armando organizzarono la riedizione dell'impresa del nonno, che quando era andato in pensione, al termine dell'ultimo giorno di lavoro nel cantiere di una località sciistica, se n'era tornato a casa a piedi, attraversando quattro valli. La gente fa cose strane e questa ne batte molte altre. Le Alpi piemontesi sono alte e non c'è nessun premio per chi compie questa impresa. Solo la soddisfazione di ricordare una gran persona e il piacere di condividere con chi stimi un pezzo di strada che nessun altro percorrerà. È l'agosto del 1990, io ho 12 anni e mezzo, sono piccolino e magro e forse ne dimostro anche meno. Ecco perché nessuno mi ha chiesto se volevo partecipare, ovviamente. Io però capisco che è una cosa importante e quindi comincio a dire che io voglio partecipare già molti giorni prima. Mio padre ha fiducia in me, è mia madre quella da convincere. Ora a distanza di tempo capisco i suoi dubbi. A quel tempo però ero arrabbiatissimo davanti al suo no. E quindi insisto, e insisto ancora. Coinvolgo anche lo zio Armando. E non so come, ma il giorno prima della partenza, alla mia ennesima richiesta decisa ma sempre composta, mia madre cede. Forse per sfinimento. E io me la godo. Farò parte del gruppo. Il programma prevede la sveglia alle 2 di notte per essere nel piazzale delle piste da sci alle 4 del mattino e iniziare la camminata. Io mi preparo meticolosamente, riserve di cioccolata e caramelle di zucchero, oltre a vivere le borracce che si usano nelle gite in montagna. Insomma, mi sento pronto. Mia madre, anche se ne aveva quattro figli a cui badare, io ero più grande, quindi ha sempre avuto, diciamo, un occhio di riguardo per me. Sono sempre stato un po' il, come si dice da noi, il checco di mamma. Il padre ci ha sempre permesso di fare qualunque cosa nel casale, non ci ha mai imposto orari. Tutta la vita mio padre non ha mai dato divieti, se non l'unico, quello di non fumare. I colleghi e gli amici dello zio che hanno aderito all'iniziativa, appena mi vedono scendere dalla vecchia Fiat 127 gialla, cambiano espressione e guardano in malo modo mio padre. Io capisco dai loro sguardi che pensano che io sia troppo piccolo per una fatica del genere. Ormai però siamo lì, c'è poco da fare. A meno di mandare tutto a monte, ovviamente. Quindi si fidano e amen, e si parte. Dei miei calcoli avevo valutato che attraversare quattro valli in fondo volesse dire fare quattro salite e poi quattro discese, e magari nella discesa non fare nemmeno troppa fatica. In realtà la montagna non è così schematica, e di salite ce n'erano molte di più, e anche in discesa si faticava. Ma tutto questo l'ho scoperto dopo, però. La camminata fila liscia, secondo i programmi, per le prime ore. Nel pomeriggio però cala una nebbia fitta e improvvisa. Noi proseguiamo senza indugio lungo un sentiero appena accennato, perché in montagna non c'è tempo per la paura, fino a che questo non inizia a scendere bruscamente verso valle. Ecco, questo fatto coglie di sorpresa lo zio capogita, che controllata la cartina e la bussola capisce che qualcosa non torna, che deve esserci un altro sentiero parallelo al nostro ma molto più a monte. Così, contro ogni regola, cambiamo programma e ci arrampichiamo fra pietraie e rododendri, alla ricerca del sentiero giusto. Intanto le ore passano, la strada non si trova e di fatto noi ci siamo persi e non sappiamo bene nemmeno in quale valle delle Alpi. I miei compagni di gita li vedo sempre più stanchi, scoraggiati, mentre io ho la riserva di caramelle di zucchero, che non offrirò mai a quegli adulti che non mi volevano. Ne mangio una ogni mezz'ora e ad ogni caramella mi sento più forte di prima. Non ho paura finché sono di fianco a mio papà. Io, diciamo che con gli altri bambini ero sempre un po' il bastian contrario, cioè non volevo mai andare dietro a quello che facevano gli altri. Per cui se gli altri giocavano a calcio io sono andato a giocare a baseball. Se andava di moda la felpa firmata, io mettevo la felpa degli Iron Maiden del mercato. Tanto che per questa felpa degli Iron Maiden ritorno volta al parroco chiamato a parlarci un prete esperto di esorcismi e di musica satanica, perché era preoccupato. Alla fine, intorno alle 19, troviamo un sentiero ben battuto, segnato da tacche di vernice bianca e rossa. Da qualche parte dovrà portare, pensiamo. E in effetti, dopo poco si inizia a scendere decisamente verso valle. A breve usciamo anche dalla nebbia che ci ha avvolti per molte ore e con le ultime luci del giorno intravediamo le prime case. Le ultime parole si sprecano per cercare di indovinare in quale paese siamo finiti e nessuno della compagnia lo indovina, fino a che non si intravede la ferrovia. Una visione non prevista. La soluzione del giallo però è semplice. Avevamo attraversato cinque valli, una di troppo. Arriviamo alla stazione, che erano quasi le 22, dopo 18 ore di cammino. Avvisiamo le famiglie che sono al punto di incontro, che invece dovranno mettersi in macchina e venire a prenderci alla stazione di Cuneo. Il perché lo spiegheremo a voce, che quasi ci viene da ridere, anche se loro si erano preoccupati. Di quel 4 agosto 1990 conservo una stella alpina tra le pagine di un libro, che da allora mi ricorda che la vita non la puoi schematizzare né sottovalutare, perché è ricca di imprevisti. Non per questo, però, devi avere paura di affrontarla, no? Quando ero bambino, mio nonno era un mito per me. Si chiamava Antonio. Al di là dei suoi racconti di guerra, la cosa che più mi piaceva di lui era la spensieratezza. Era il 1985 quando è mancato. Io avevo 10 anni. Quindi i ricordi che ho di lui sono come quei frammenti di film che per problemi di sintonia entrano sulla trasmissione che stai guardando su un altro canale. Vi ricordate, no? Quando la TV non era né digitale né satellitare. E la sintonia era un problema vero. A volte anche solo passare davanti allo schermo migliorava di un po' la ricezione. Allora tutti in casa dire: ecco, fermo, fermo, stai lì, non ti muovere. In quei casi capitava magari che so, il sabato sera, tu stavi guardando Fantastico, condotto da Pippo Baudo. O il Festival di Sanremo, condotto da Pippo Baudo. O Domenica In, condotto da Pippo Baudo. Comunque, all'improvviso, l'immagine si scomponeva, spariva e appariva per 3-4 secondi un'altra sequenza di immagini, tipo una pubblicità, magari un documentario sui gorilla o un film di fantascienza. Figuratevi, io ho scoperto dell'esistenza di Ritorno al Futuro proprio in quel modo, per un problema di sintonia. Ecco, mio nonno mi appare così, oggi, a 26 anni di distanza, come un'immagine che compare su uno schermo mentre scorrono le immagini della mia vita. Una sequenza che dura il tempo di una battuta, di una risata, di uno sguardo. Ricordo che mi portava sul ciao, senza casco e senza documenti, in campagna, dove lui aveva un orto, e mi faceva pure guidare. E io dovevo avere avuto 9 o 10 anni. Tutti in famiglia dicono che io assomiglio a lui, che quando era giovane aveva fatto uno spettacolo con Franco Parenti, un grande attore di qualche decennio fa, anche se in realtà dai racconti di mia nonna non ho ancora capito se era veramente Franco Parenti o aveva fatto una cosa per una compagnia che si chiamava Franco Parenti, ma è meno importante. E io ho provato a fare le cose che faceva lui. Ho provato un po' a ripercorrere quelle gesta, ma non ci sono riuscito fino in fondo. Forse fare le cose che hanno fatto le persone che ci piacciono è un modo per sentirle vicine. Cioè, ripetere la strada che hanno fatto è la soluzione migliore per cercare di essere un po' come loro. Capita, no? Capita quando sono in vita, ma soprattutto quando non ci sono più. Far rivivere le persone che ci sono piaciute rivivendo quello che hanno fatto rimane il modo più sano e più maturo per sentirli vicini. Io conosco una persona che ha circa 50 anni suonati, si è iscritto all'università e si è laureato in lettere. E lo ha fatto solo perché sua madre, che era mancata da poco, era un amante della letteratura. Lui non se n'era mai veramente interessato. Mi disse che prima del funerale aveva letto sì e no 10 libri in vita sua e non se ne ricordava nemmeno uno. Poi, senza nemmeno sapere il perché, aveva sentito l'esigenza di qualcosa di diverso e si era iscritto a lettere. Si era letto Dante Boccaccio e aveva imparato a memoria Montale, Leopardi e sempre caro mi fu Estermo Colle. Dopo 5 anni si era laureato e non aveva cambiato lavoro, non si era messo a insegnare. Però mi disse che era più felice. Mi raccontò che l'avere fatto una cosa che in un altro modo aveva fatto sua mamma l'aveva fatta sentire un po' sua, come se l'avesse capita meglio. Probabilmente questo ha a che fare con il potere immaginifico della letteratura, non lo so. Io penso però che se fosse trattato di bricolage o entomologia, il risultato sarebbe stato identico. Credo che ripercorrere il percorso delle persone che abbiamo stimato sia un modo per sentirsi meglio, perché stare vicino alle cose buone ci rende migliori. pensato che camminare 18 ore di fila, dalla mattina presto alla notte tardi in mezzo alla nebbia, soprattutto a, mi pare, quanti anni aveva? 12 anni. Pronto, Emanuele? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, avevi 12 anni, era il 1990 quando hai fatto 5 valli invece che 4, quindi adesso hai, perdonami la matematica. Ho 33 anni. Ne hai 33, cosa fai nella vita, Emanuele? Sono ingegnere. Che tipo di ingegnere sei, Emanuele? Ma sono energetico, mi occupo di energie alternative, risparmio energetico. Cioè, quelle robe tipo la forza del vento e il calore del sole? Esatto, penso che va di moda. Ma lavori per conto tuo o per una società? Sì, no, sono libero professionista e faccio corso. Senti, torniamo invece a questo giro che avete fatto di 5 valli e non 4. Dimmi che cosa ti ricordi, un ricordo particolare di quella giornata. Cioè, si è camminato un sacco e soprattutto quando si è preso fuori dal sentiero in mezzo ai rododendri, e io avevo le gambe corte, i pantaloni corti, tutti graffiati da questa vegetazione selvatica, e siamo stati in mezzo a questi rododendri un paio d'ore. Senti, mi pare di capire dal... Non sapevamo più andarsi su o giù, non si sapeva più, in mezzo alla nebbia non... Veramente eravamo tutti nel pallone. Che... Mi pare tu l'abbia scritto, però mi pare di capire comunque dall'accento che parliamo del Piemonte, vero? Sì, le valli cuneesi. Mi dici come i nomi delle quattro valli? Allora, le valli, siamo partiti da la Valle Maudagna, dove c'è presente Prato Nevoso, sì, località sciistiche, poi dovevamo scollinare in Valle Ellero, poi si saliva in Valle Pesio per arrivare in Valle Colla, e noi in realtà siamo arrivati in Valle Vermenagna, che è quella successiva ancora. Senti, tu ci vai ancora in montagna? Sì. Cioè ci vai seriamente, quindi? No, non seriamente, quando ora con la famiglia, quando sei, non so, ho amici che fanno i 6.000 in Nepal. Quelli ce li hanno un po' tutti, però li tengono come amici. Li tengono come amici, anche Bonini ci avrà un amico che fa i 6.000 in Nepal, esatto. Ovviamente. No. Senti, hai famiglia adesso, hai figli, moglie? Sì, ho una bimba di... 2 anni e un maschietto di 2 mesi. Ti sei mai perso altre volte dopo quella volta? Dopo quella volta mi sono perso tra la Langa e il Monferrato in macchina. Vabbè, però il navigatore continuava a dirmi di girare in un posto dove strade non ce n'erano. E ti sei perso, però perdonami, ma non è epico come perdersi a 12 anni nella nebbia e fare 5 valli invece che 4. Emanuele, ti ringrazio moltissimo per la tua storia, per il tuo racconto, e ti faccio in bocca al lupo. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Spero che questa foto che mi ha mandato Emanuele sia di qualche tempo fa, perché è a cavallo di una moto che io ricordo quando avevo 16 anni. È una Yamaha, credo 125. C'è qualcuno di là dal vetro che la sa dirmi di che... Ok, Yamaha TZR 125, forse 250. Ma credo sia uno di quei due tempi che faceva... Lui è su un giubbotto da ciclista delle Nike dell'89 e non ha 33 anni. Quindi per forza questa foto è di almeno 15 anni fa. Voi siete qui. La foto la potete vedere sul sito radio24.it, alla pagina Voi siete qui. Siamo in home page, no? Non siamo in home page. No, non siamo ancora in home, niente, non siamo ancora in home page. Sul sito potrete scaricare i podcast della trasmissione. Tra l'altro, oltre al sito c'è un altro modo, che è semplicemente abbonarsi ad iTunes e quella roba lì. Te le fa scaricare automaticamente se non riuscite a sentirle in diretta. 349-238-6666. Sandro mi scrive a proposito di ripercorrere le strade dei propri padri. Io ci avrei provato, ma certe doti, soprattutto sportive, purtroppo non si ereditano. Quindi sono stato un mediocre calciatore, ma mi resta sempre la carta del calzolaio, come mio nonno. In fin dei conti ha pur sempre a che fare coi piedi. Lui si chiama Sandro Pasetti di cognome. Frank, tu che sei... Io credo che Pasetti fosse un calciatore. Non è che devi fare sicura testa. Guarda! E mi guarda e dice sì. Fai una ricerca. Fai a tempo di sport. Lo saprai meglio di me, no? Stefano. Mio nonno, ragazzo del 99, fante combattente sul Carso, a 17 anni. Io senza averlo mai conosciuto, perché se n'è andato l'anno prima che nascessi, è il mio secondo nome, il suo, orgogliosamente ufficiale di fanteria, sempre sul Carso, vicino al sacrario di Re di Puglia, a pattugliare il confine con la ex Jugoslavia. 349-238-6666, è arrivata un altro messaggio, ne sono arrivati diversi oggi, e quasi tutti parlano di vita militare. Di vita militare ripudiata e poi rincorsa per cercare di raggiungere il padre. È il caso anche di Diego, che mi scrive: mio padre è stato militare alla caserma Tagliamento, vicino a Pordenone, in un comune che si chiama Arzene. O Arzene. E chi lo ce ne fosse uno che lo sa proprio. Uno che lo sa. Insomma, io non ho mai fatto il servizio militare, però l'altro giorno, dopo che lui me ne ha parlato, mi sono svegliato, mi sono messo in macchina, ho fatto 300 km, ho trovato questa ex caserma e l'ho filmata. Sono tornato da mio padre e gliel'ho fatta vedere. Morale, la settimana prossima riporterò mio papà, dopo 50 anni, all'ex caserma Tagliamento. L'ho promesso a lui e l'ho promesso a me stesso, a proposito di ripercorrere le vecchie strade. Ciao Diego, 349-238-6666, eccolo qua, mi scrivono: Riccardo, Pasetti ha giocato nella SPAL e nella Juve. Franco non ce l'ha arrivato però ancora. Ah, me l'avevi scritto. Hai ragione, eccolo qua. Juve Palermo, anni 60. Un'altra mail bellissima che mi è arrivata oggi e che riguarda veramente strade, in questo caso strade ferrate ripercorse. Me l'ha scritta Raffaele. Caro Matteo, mi chiamo Raffaele e vivo a Latina. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Forse proprio per questo ho sentito il bisogno di ripercorrere la sua strada, per sentirlo un po' più vicino, per cercare di conoscerlo un po'. Mio padre era un ferroviere, un macchinista, di quelli che i treni li guidano. È mancato quando io avevo un anno e mezzo, e quello che so di lui arriva dalle poche foto scattate dopo la mia nascita e dai racconti di mia madre. Un ferroviere non ha una vita avventurosa, non ci sono gesta particolari da raccontare. Per molti anni lui si è alzato alle 3 del mattino e tornava tardi la sera. Una volta il vagone di un treno merci che stava guidando ha preso fuoco in una galleria e lui è riuscito ad uscirne senza danni, per le cose e per le persone. Io ho compiuto 43 anni lo scorso mese di marzo e ormai sono più di 40 che vivo senza di lui. Ho poche foto di mio papà, pochissimi ricordi e qualche storia che mio padre ha vissuto nella sua vita e che rivive nei racconti delle persone che lo hanno conosciuto. Prima dell'estate però ho avuto un'idea. Non so se servirà a qualcosa. Però ho deciso letteralmente di ripercorrere le strade percorse da mio padre. Anzi, per esattezza, le strade ferrate che lui ha percorso, sui treni che guidava. Chiedendo a mia madre sono riuscito a stabilire grosso modo una decina di tratte che lui ha percorso con una certa assiduità. Roma-Napoli, Roma-Milano-Torino, ma anche Bari, Trieste, Catania, Genova e L'Aquila. Ci metterò qualche anno, probabilmente, ma le mie prossime vacanze le passerò così, sui binari e nelle stazioni che mio padre ha percorso e visitato nei suoi 15 anni di lavoro per le Ferrovie dello Stato. Forse non lo conoscerò meglio, ma spero di sentirlo un po' più vicino. A presto, Raffaele. Mio padre aveva la passione per le parole, mi scrive Luca, 349-238-6666, e io ho fatto lo psicoanalista. E poi invece, questo me lo scrive non so chi, perché non si firma, si dice Arzene, senza accento sulla prima lettera. No, quindi Arzene, senza accento sulla A, giusto? Si dice Arzene, provincia di Pordenone. E poi, questi sono veramente i miei messaggi preferiti. Ciao Marco, puoi ripetermi i libri che hai consigliato ieri? Luigi si chiama. Allora, Luca, facciamo così. Non mi ricordo che libri ho consigliato ieri, però di solito li carichiamo sul profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. perché mi chiamo Matteo, non Marco. 349-238-6666. Non so che libri ho consigliato ieri. A parte che non è che consigli dei libri. Magari mi ricordo che c'è una cosa in un libro che ho letto che riguarda quello di cui sto parlando e la vado a prendere. Ed è proprio successo nello stesso modo oggi, perché pensavo a questa cosa dei padri che si cerca di seguire in un modo o nell'altro. E c'è un libro che è Il fallo delle vanità di Tom Wolfe, in cui a un certo punto lui racconta meglio di chiunque altro quel momento in cui un figlio si rende conto che il padre non è solo un padre, ma è un ragazzo come lui. Nell'attesa il leone guardò fuori dalla sua finestra isolata, strinse le labbra e parve molto vecchio e stanco. E in quel momento Sherman fece la tremenda scoperta che prima o poi tutti gli uomini fanno a proposito dei propri padri. Per la prima volta si rese conto che l'uomo davanti a lui non era un padre che stava semplicemente invecchiando. Era un ragazzo molto simile a lui, un ragazzo cresciuto che aveva avuto un figlio suo e che, facendo del suo meglio, indipendentemente dal senso del dovere e forse dall'amore, aveva assunto il ruolo di padre, perché questo figlio potesse avere al suo fianco un essere mitico e infinitamente importante. Un protettore che l'avrebbe difeso da tutte le eventualità di caos e di catastrofi nella vita. E ora il ragazzo, quell'ottimo attore, era diventato vecchio, fragile e stanco, soprattutto ora, più che mai, al pensiero di dover rientrare dentro la corazza del protettore, tanto tardi nella vita. Ciao, sono Henry. Visto che poi magari Luigi mi scrive: Marco, che libro era? Il libro di questo pezzo era tratto dal Falò delle vanità di Tom Wolfe. E poi invece sono Henry, sono di Arzene con l'accento sulla A. Ah, quindi è Arzene, non Arzene. Vabbè, la caserma è in disuso, non so cosa vada a farci. Cosa va a farci? Porta il padre a vedere la caserma dove era stato 50 anni fa. Tant'è, c'è un fine settimana in mezzo prima di lunedì. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche oggi questo programma: Paolo Corleoni, Franco Piantanida, Stefano D'Andrea e comunque Tiziano Bonini e Viola Bottoni. La storia di oggi era quella di Emanuele e parlava di ripercorrere le strade dei padri. Quella di lunedì invece è la storia di Stefano e parla di menestrelli. Con quell'amico ritrovato ci diamo appuntamento per cenare insieme. Davanti ad una birra mi racconta di un anno come dipendente in un'azienda di Milano. E poi la fuga, per riprendere il controllo della sua vita. E le giornate senza padroni, le canzoni nelle piazze, e le ragazze che si innamorano di lui. Mi colpisce il cuore, soprattutto nella fantasia. Sono trafitto. Voglio andare con lui.